disparità, oscurità profonda, volto cupo, tristezza che emerge alla ricerca di una luce nel profondo, cercando riemergere sulla strada, oscurità profonda che può a po' delinea il percorso, una porta intravista, una porta lontana e socchiusa. La disparità nella sua essenza, l'oscurità nel profondo è un raggio di luce che delinea la via e la rinascita. Figure ombrose, ombre che delineano e che camminano nell'oscurità per inciampare e alzarsi. Disparirà sulla strada, disparirà in ciò che sta arrivando, che c'è una luce sulla via, che luce e luci. Volto cupo, occhi tristi che guardano in lontananza il alzarsi e tornare. Oscurità profonda, volto cupo, tristezza che emerge alla ricerca di una luce nel profondo, cercando riemergere sulla strada. Oscurità profonda che poco a poco delineano il percorso. Una porta intravista, una porta lontana socchiusa, una porta che deve essere aperta per tornare ai disparati. Il cavaliere.